Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bora con raffiche oltre i 100 km orari a Trieste, diversi interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti. Atti vandalici nella palestra del Marinori di Udine, con danni per almeno 200.000 euro, indagine dei carabinieri in corso. Appartamenti occupati e allacci abusivi alla rete elettrica, verifiche della polizia locale di Trieste nei condomini ATER. Dalla lunata alpina di Udine l'ipotesi di una mininaia breve volontaria, e l'ANA chiede di potenziare i campi scuola. L'inflazione rialza la testa, ad aprile a Trieste aumento medio di prezzi dello 0,7%, a Udine dello 0,3%. A Trieste entra in funzione Donchi, ambulatorio medico itinerante per portare assistenza sanitaria ai più fragili. 12 e 31 minuti, buongiorno da Maria Spezia, Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, è tornata la bora forte a Trieste con raffiche poco sotto i 120 km orari questa mattina e qualche intervento che si è reso necessario da parte dei vigili del fuoco. E al momento vi possiamo dare le previsioni dell'ARPA per il pomeriggio: il cielo sarà da nuvoloso a coperto con possibili temporanee schiarite su pianura e costa orientali, saranno probabili piogge sparse, più deboli e intermittenti verso sud-est, più continue abbondanti sulla zona montana e a ovest con possibili rovesci, quota neve sui 2000 metri, soffierà vento sostenuto da nord-est in quota, bora moderata o sostenuta in pianura e ancora forte sulla costa in giornata con raffiche sugli 80-90 km orari a Trieste. Per domani il cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti, in genere moderate, e quota neve sui 1700 metri. Ci sarà ancora bora sostenuta sulla costa, specie di mattina, sarà poi possibile qualche schiarita. E come avete sentito, la bora forte è tornata a Trieste con raffiche poco sotto i 120 orari questa mattina e qualche intervento dei vigili del fuoco. Ci aggiorna in diretta Daniele Lettig. Buongiorno. Come da previsioni annunciate, la primavera continua a farsi attendere su tutta la regione, che si è svegliata questa mattina alle prese con il maltempo. Particolarmente forte sulla costa la bora, che ha iniziato a soffiare durante la notte e che alle 6 ha raggiunto la velocità di 116 km orari, con raffiche che poi si sono mantenute tra i 100 e i 110 all'ora. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per i consueti interventi da bora: rami spezzati, cornicioni pericolanti, motorini abbattute e lamiere volanti, come alcune di quelle del centro commerciale Il Giulia. Sempre in mattinata il servizio di trasporto marittimo Trieste-Muggia è stato sospeso e il comune di Trieste ha deciso di chiudere per tutta la giornata e fino al calo delle raffiche i giardini pubblici recintati. Non si registrano invece disagi alla circolazione, con vigili e polizia stradale che hanno compiuto pochi interventi di lieve entità, il principale per la rimozione di alcune lamiere sulla grande viabilità triestina. Qualche danno invece sull'altipiano, come ad Aurisina, dove alcuni alberi sono caduti sulla strada e su alcune abitazioni. La pioggia, comunque di lieve entità e a carattere sparso, e il vento hanno provocato alcuni disagi anche nelle altre zone della regione. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco di Gorizia e Pordenone, in particolare per rami caduti sulle strade della fascia pedemontana. In provincia di Udine gli interventi principali, sempre relativi a rami caduti, sono stati a Taipana, Faedis, Rive d'Arcano e Cornino, dove è presente anche la Protezione Civile regionale. Ringraziamo Daniele Lettig per averci raggiunto in studio con i suoi aggiornamenti e proseguiamo con il meteo. Il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste: 17 gradi con bora a 72 km orari di media e raffiche che, come abbiamo detto, hanno raggiunto i 116 km orari, a Pordenone 18, a Gorizia 16, a Udine 15 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, Tarvisio 8, Forni di Sopra 7, Piancavallo e Sappada 6, in quota sul Monte Zoncolan 1 grado e 5 decimi e sul Monte Lussari 0, sulla costa Grado e Lignano 17. La cronaca, ora due persone denunciate a Trieste, un'occupazione di alloggio abusiva e quattro furti di energia elettrica, di cui uno aggravato, oltre al rinvenimento di materiale militare e di armi da taglio. A condurre l'operazione è stata la polizia locale in collaborazione con Ater Trieste e con Acegas APS AMGA. Nell'ambito di controlli avviati in diversi stabili Ater in via Lorenzetti sono state individuate e denunciate due persone che occupavano abusivamente un appartamento allacciato anche in modo abusivo alla rete elettrica. La situazione più problematica è stata però rilevata in via Grego, dove sono stati riscontrati tre furti di energia elettrica. In questo caso non è stato ancora possibile risalire ai responsabili, anche se le verifiche continueranno. In altri stabili Ater sono state rinvenute armi da taglio e materiale militare. Ancora cronaca, c'è un'indagine dei carabinieri di Udine in corso per individuare i responsabili degli atti vandalici avvenuti nel fine settimana nella palestra dell'Istituto Marinoni. I danni sono stati calcolati in circa 200-250 mila euro nella struttura sportiva, ora inagibile sia per gli studenti sia per le diverse associazioni che la usano. Sono stati svuotati gli estintori trovati sul posto e così il parquet ha già iniziato a gonfiarsi, potrebbe dover essere sostituito completamente. I vandali hanno anche distrutto sanitari in ceramica, mobilio, scardinato le porte. Considerate le impronte rimaste sul pavimento e porte, sarebbero stati almeno due. E ora la dunata degli alpini, che ormai è alle spalle ma fa ancora discutere la questione emersa in più momenti di un eventuale ripristino della naia, sia pur volontaria e in forma ridotta. Dalla 94esima adunata di Udine, l'Associazione Nazionale Alpini ha chiesto a Governo e Parlamento di potenziare l'esperienza dei campi scuola dell'ANA, rivolti ai giovani dai 16 ai 25 anni, al duplice scopo di avere una riserva anche civile per le emergenze, un serbatoio utile per la nazione, l'ha definito il presidente Sebastiano Favero, e al contempo assicurare il ricambio generazionale all'associazione. Il dibattito pubblico e politico si è indirizzato sulla possibile introduzione di una cosiddetta mini naia volontaria da 40 giorni. In questi giorni Ennio Blanzan, presidente della sezione carnica dell'ANA, sta organizzando la seconda edizione del campo scuola dopo l'esperienza Paluzza del 2022. Anche a Pordenone l'anno scorso se n'è tenuto uno. Si tratta di 15 giorni, ci spiega, in cui i ragazzi visitano i reparti in armi degli alpini in regione, si addestrano a soccorso alpino, forestale, antincendio, effettuano marce in montagna, visitano i centri storici della Carnia. Le ragazze sono alloggiate in locali della caserma Plotzner di Paluzza. I ragazzi in tende fornite dalla Protezione Civile. Imparare facendo, insomma, che è anche il motto del servizio civile universale, un altro tipo di partecipazione civica pensata per i giovani. Gli addetti ai lavori si dicono preoccupati perché senza fondi PNRR, tra due anni le risorse in bilancio non riuscirebbero a garantire posti per più di 25.000 giovani in Italia, quasi un terzo rispetto ai 70.000 attuali. In Friuli Venezia Giulia le domande vanno di pari passo con l'offerta di posti, al momento sono 707 a fronte di 692 richieste, ma così non è nel resto d'Italia e c'è incertezza per il futuro. Da più parti l'auspicio, tra gli operatori del terzo settore, che il dibattito coinvolga anche l'altra metà del cielo delle politiche giovanili, quella non militare. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento e passiamo ai temi dell'economia. Pubblicati questa mattina i dati sull'inflazione di aprile. L'inflazione rialza la testa nelle due città campione del Friuli Venezia Giulia. A Trieste un aumento medio dei prezzi dello 0,7% in un mese, a Udine dello 0,3%. In entrambe le città l'indice dei prezzi al consumo un mese fa risultava addirittura in calo. Di conseguenza torna ad aumentare anche il tasso tendenziale annuo di inflazione. A Trieste cresce dal 6,6% al 7,4% e a Udine passa dal 7,4% al 7,8%. A trainare i rincari, i nuovi aumenti alla voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili. In questo settore i prezzi sono cresciuti dello 0,9% in un mese a Udine e dello 0,5% a Trieste. Crescono anche i prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche, in particolare a Trieste, più 0,9%. In aumento anche il costo dei trasporti, 0,9% in più a Trieste e 0,7% in in più a Udine. Nel capoluogo regionale poi impennata su base mensile dei costi dei servizi ricettivi e di ristorazione, dove i prezzi sono cresciuti del 4,2%. A Udine i rincari in questo settore si sono fermati all'1%. I dati dei due uffici di statistica segnalano una preoccupante inversione di una tendenza al calo dell'inflazione su base annua che durava ormai da novembre. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Un team formato da due medici e un mediatore culturale a bordo di un furgone. Obiettivo: portare assistenza sanitaria alle fasce più emarginate e fragili del territorio triestino. Un furgone speciale attrezzato ad ambulatorio mobile per eseguire visite mediche o esami specialistici. Un camper dal nome Donkey che si muoverà in tutta la provincia di Trieste portando a chi ne ha più bisogno l'assistenza di un team formato da due medici, un mediatore culturale e uno psicologo. Un ambulatorio mobile acquistato grazie al contributo della Fondazione CRT e del Rotary Club Trieste Nord. Il nome proviene da Donk Humanitarian Medicine, un'associazione attiva sul territorio dal 2012 che offre assistenza sanitaria gratuita a tutte le persone, sia straniere che italiani. 3.000 le visite eseguite in un anno, 50 medici e infermieri volontari che lavorano con passione e amore, come ha detto Stefano Bardari, presidente di Donk. Allora, un sogno che si realizza. Sì, Donk è un sogno che si realizza, perché con l'acquisto di questo ambulatorio mobile riusciremo ad andare noi lì dove c'è bisogno, e Donk sta per Ronzinante, per Asinello Ronzinante, quindi si chiude un cerchio e ritorniamo al nome Don Chisciotte, che era il nome originario della nostra associazione, quindi la lotta contro i mulini a vento e quindi l'attualità, quello che noi facciamo ogni giorno nei nostri ambulatori. Un'esperienza che ora condividerete in un evento sabato, il Festival del Volontariato e della Medicina Umanitaria. Salute, qual è l'obiettivo? Sì, siamo molto orgogliosi di aver organizzato questo festival e della risposta al momento che c'è stato e le associazioni che vi parteciperanno. Gli obiettivi di questo festival sono essenzialmente due. Il primo, che è ancora il più importante, è essere fonte di ispirazione per i giovani medici, i giovani infermieri e i medici in generale che vogliano approcciarsi a quella che è la medicina umanitaria e al volontariato, e il secondo, quello di fare rete tra le varie associazioni che si occupano di medicina umanitaria. Trieste, Vacciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora a Trieste è iniziato ieri lo smantellamento della telaferica, già ai Talcementi. L'elicottero dell'Eli Friulia ieri per ora ha volato basso sopra le case e i campi tra via Costalunga, via Scarlicchio e sopra l'abitato di via Brovedani, un'area verde della periferia triestina che dal 1954 ha convissuto con la teleferica Polig di Italcementi, che dalla cava di calcare sul Carso sopra San Giuseppe portava con i carrelli sospesi 150 tonnellate di calcare allora al cementificio sul canale navigabile. Struttura che ha affascinato molti, come si vede nel bellissimo video realizzato dagli autori di Lost Structures. Dagli anni 2000, tuttavia, i vagoncini hanno rallentato le corse finché nel 2014 la teleferica si è fermata, i carrelli sono stati tolti, ma i tralicci e i sostegni e gli archi di deviazione e di pendenza sono rimasti. Ieri lo smantellamento definitivo con squadre di operai bergamaschi che hanno sezionato i tralicci assicurandoli, e quindi l'elicottero di Eli Friuli Giulia agganciava i pezzi di metallo sezionati, li sollevava e li trasportava in punti definiti dove verranno recuperati e impegnati per futuri usi. Il lavoro di preparazione del cantiere di smantellamento dell'elettrodotto della teleferica è durato circa 2 mesi. Domani o venerdì, bora permettendo, ancora gli ultimi voli dell'elicottero che dovrà sollevare le sezioni dei basamenti dei manufatti. L'opera di smantellamento dell'elettrificazione della teleferica è a carico di Italcementi, ci ha spiegato la vicepresidente di Coselac, Sandra Primiceri. L'area del cementificio ha cambiato proprietà e ora si sta costruendo un polo del freddo da 25.000 metri quadrati. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Istituto Bearzi di Udine ospita oggi e domani un concorso di saldatura rivolto a giovani studenti dei corsi di formazione professionale. Una figura, quella del saldatore, che le aziende della regione e non solo faticano a trovare. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. saldatori, ma anche fresatori, tornitori, manutentori, elettricisti. Gli operai specializzati sono materia preziosa e sempre più scarsa per le imprese. Giulio Armano, coordinatore del Centro di Formazione Professionale dell'Istituto Bearzi di Udine. I mestieri pratici, quelli che portano direttamente all'uso delle mani, sono un po' visti come se fosse un qualcosa di poco conto. Invece in questo momento le aziende chiedono delle maestranze che siano pronte a utilizzare le attrezzature che trovano poi all'interno delle aziende. Istituti come il Bearzi di Udine offrono corsi per formare queste figure. Gli studenti sono subito chiamati dalle aziende. Di fatto abbiamo 150 richieste che non riusciamo a soddisfare, perché tutti i nostri allievi che escono con la qualifica professionale o col diploma professionale di fatto sono tutti occupati. Corsi seguiti con passione dagli studenti, come racconta una ex allieva che ora lavora in una ditta che installa impianti audio. Ho sempre avuto un'attitudine un po' più pratica e quindi ho detto perché no? E allora ho scelto il Bearzi, il professionale, che poi mi ha appassionato tanto e poi ho continuato. Ho fatto anche il tecnico e poi l'università e insomma mi sono specializzata. Si tratta di lavori sempre meno usuranti grazie alla digitalizzazione, dove l'automazione e l'intelligenza artificiale aprono nuove prospettive, non per forza negative. L'automazione, la digitalizzazione aiuterà il saldatore soprattutto nelle operazioni più ripetitive e gravose. Non andrà a sostituire completamente l'attività di saldatura. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È il Friuli Venezia Giulia, la regione italiana in cui si registra la maggiore crescita di domande pubblicate dall'Ufficio Brevetti Europeo nello scorso anno. L'aumento è stato infatti del 21% rispetto al 12% del Trentino Alto Adige, cioè la seconda regione nella classifica. Nel territorio l'area più attiva è stata quella del Pordenonese con una crescita del 22%. Lo scorso anno in Italia sono state presentate quasi 5.000 richieste. E a Torino apre giovedì il Salone del Libro e ci sarà anche una nutrita presenza di case editrici della regione. Sono 12 le case editrici del Friuli Venezia Giulia che saranno presenti al Salone del Libro di Torino in programma dal 18 al 21 maggio. La novità che caratterizza la presenza della regione all'edizione di quest'anno sarà l'attività legata a Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura. Nello stand realizzato con il legno proveniente dalle nostre foreste, il Friuli Venezia Giulia, con il supporto organizzativo della Fondazione Pordenone Legge, dedicherà spazio sia alla cultura del territorio, con più di una trentina di appuntamenti in calendario, sia la promozione delle bellezze paesaggistiche grazie alla presenza dello staff di Promoturismo. Le 12 case editrici della regione saranno protagoniste di una quindicina di incontri con le loro iniziative editoriali, ma lo stand, come in passato, sarà anche il punto di riferimento della poesia all'interno del programma complessivo della fiera, per gli eventi organizzati in collaborazione tra il Salone del Libro e Pordenone Legge. Da venerdì a domenica sono in programma una quindicina di incontri con gli autori, riconfermata anche la libreria della poesia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il basket di Serie A2 ed è finita 88-82 a favore dei Ducali, la gara 1 dei quarti di finale playoff tra Udine e Cividale che è stata giocata ieri al Pala Carnera. La partita è stata giocata a ritmi altissimi come volevano gli ospiti, capaci però nella ripresa di adeguarsi al gioco di Udine, e c'è soddisfazione nelle parole del tecnico della Gesteco, Stefano Pillastrini. Sono stati davvero bravi, perché sai, nel momento che hai il primo tempo va bene, segni sempre, però finisci il primo tempo sotto di 3 punti con delle percentuali altissime. Abbiamo capito che la strada era diversa, la strada era cominciare a difendere in un modo più aggressivo, siamo riusciti a farlo, abbiamo portato la partita nella direzione che volevamo noi e poi sono stati molto bravi. I ragazzi sono stati veramente bravi a tenere alla fine. Devo rivedere la partita, ma mi sembra che abbiamo messo proprio un muro davanti al nostro canestro, loro non segnavano più, e poi in attacco abbiamo, nel finale siamo andati veramente molto giocando di squadra. Ed ora le parole del dopopartita dell'allenatore della Puold Wild West Udine, Carlo Finetti, che esprime tutta la delusione bianconera. Un approccio difensivo non adeguato alla partita, all'atmosfera, ai playoff, e quindi credo che ci sia poco da aggiungere. L'approccio difensivo è stato sbagliato, quello ha condizionato tutta la partita, quindi sicuramente adesso rivedremo le cose che non hanno funzionato e ci presenteremo più pronti in gara 2. E sono già quasi esauriti i 3.000 biglietti per salire in telecabina al Monte Lussari e assistere così alla tappa del Giro d'Italia del 27 maggio prossimo, che sono stati messi in vendita online stamattina da Promoturismo FVG al costo di 22 euro. Alle 12 i biglietti venduti online erano già quasi 2.300, fa sapere Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Un migliaio sono andati bruciati ad appena 30 minuti dall'avvio del Click Day alle 9.30, al ritmo di una mail di acquisto al secondo. Le fasce orarie più cliccate tra le 4 disponibili per la salita in telecabina al Monte Lussari, da dove assistere alla tappa del Giro d'Italia, quelle tra le 10.30 e le 12.30, a seguire le partenze dalle 8.30 per i più mattinieri. Oltre 800, sempre a mezzogiorno, i parcheggi dedicati, acquistati in abbinata pagando 3 euro in più. La vendita andrà avanti sino ad esaurimento. Quanti finora si sono assicurati con un clic il posto in telecabina riceveranno via mail il biglietto elettronico da presentare sul dispositivo, foglio stampato insieme a un documento di identità il giorno dell'evento. In omaggio riceveranno anche un cappellino e una mantella marchiati Io sono Friuli Venezia Giulia e Giro d'Italia. Per la discesa avranno a disposizione tutto il giorno. La telecabina rimarrà infatti aperta eccezionalmente dalle 8 alle 24. Il 27 maggio, per motivi di sicurezza, anche l'afflusso delle auto ai parcheggi sarà suddiviso in fasce orarie. L'accesso all'impianto di risalita sarà quindi riservato ai possessori del ticket dedicato all'evento, ma il pubblico potrà raggiungere la cima anche autonomamente a piedi attraverso i due sentieri praticabili. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Ora alcuni appuntamenti, una conferenza, la crisi russo-ucraina e le ricadute globali sulla sostenibilità dei mercati agroalimentari. La terrà il docente dell'Università di Trieste Gianluigi Gallenti a Trieste alla Biblioteca Statale Stelio Crisi alle 17. Il filosofo ed editore friulano Emanuele Franz, attivo nello studio della storia delle religioni, dialogherà con Renata Capriadaronco, presidente del Club per UNESCO di Udine, alla biblioteca in via Villa Gloria alle 18. La presentazione del libro Lezioni di Torah, riflessioni e insegnamenti di vita a Trieste nello spazio conferenze del Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner in via Del Monte alle 18. Luisa Valenzuela presenterà il suo libro Il procuratore muore a Trieste all'antico caffè San Marco alle 18. Tra le pagine del libro l'allusione alla morte di Alberto Nisman, oppositore di Cristina de Kirchner, vicepresidente dell'Argentina, accusata di aver coperto il coinvolgimento dell'Iran nell'attentato contro un centro ebraico a Buenos Aires nel 94. Due anni sul Carso, da San Michele a Castagnevizza con la Brigata Ferrara, è il titolo dell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale e Storia Ronchi dei Legionari in biblioteca alle 18.30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Viola Romanese e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia. Alle 14 il telegiornale sul terzo canale TV. L'informazione radiofonica torna invece alle 15. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.